Vi ringrazio per l'invito. Vi chiedo scusa se non potrò star qui tutto il giorno, ma quando Fiorella mi ha invitato, io ho già preso un impegno per domani in Emilia, quindi devo essere a Bologna stasera. Quindi, passeremo 3 ore insieme. Devo dire che la presentazione che ha fatto Fiorella di me mi mette un po' in imbarazzo dopo il ragionamento, le parole di Ciccio. Oh, tu sei Perché io bravo, ci sulle parole di arriviamo. Ciccio mi sono interrogato mentre lo ascoltavo con molto piacere, alla domanda: ma io dico, oggi sto qui, qual è lo scopo per cui sto qui? E poi, dopo il ragionamento che è meglio essere piccoli che, come dire, la cosa mi ha messo ancora più in crisi. Fiorella mi ha definito, ho sentito il Wikipedia di, che ne so, di vari problemi, mi sembra. Allora, chiariamo subito, stabiliamo un patto fra di noi. Allora, l'incontro di oggi non vuole essere un corso di formazione, perché vi dovrete sorbire un po' un pistolotto da parte mia e dopodiché la seconda parte, come dire, discutiamo. Rispetto all'idea che vi ha dato forse Fiorella, io vorrei fare una precisazione. Io non sono, non sto qui per portare, come dire, la linea. Perché siamo in una situazione complicatissima. È successo di tutto e di più, i problemi sono enormi, non è facile affrontarli, non c'è una ricetta, per affrontarli, perché stiamo in una fase complessa anche di, come dire, di transizione e di discussione. Quindi io l'obiettivo che mi propongo è di esporvi il lavoro che collettivamente è stato fatto, diciamo, da un mese a questa parte, perché noi, dopo tutte le vicende estive, come gruppo nazionale, in particolare come dipartimento che si occupa della contrattazione, abbiamo cominciato, come dire, a ragionare appena Ferragosto su che cosa serve alle strutture, che contributo possiamo dare, quali indicazioni possiamo dare. Abbiamo cominciato a lavorare su dei materiali, abbiamo deciso con la segreteria nazionale di fare un giro di seminari, che sono, diciamo, prima a livello regionale, poi adesso stiamo andando un po' in giro nei territori. E quindi questo tipo di lavoro, questi incontri, è un lavoro che ha contribuito, come dire, a condividere delle valutazioni prima e delle indicazioni su come orientarci. Allora, il mio proposito è quello di raccontarvi un po' a che punto siamo, dal punto di vista del ragionamento che, ripeto, è stato costruito come gruppo. Ci sono dei materiali che abbiamo già messo a disposizione, altri che cercheremo di integrare via via, che si procede con queste con discussioni come quelle che faremo assieme stamattina. Cioè, ci dobbiamo dare, come dire, un contributo reciproco a condividere come orientarci, perché noi avremo problemi, come dire, li avete già in questi giorni, ma nelle scuole, nella consulenza, dal punto di vista del contenzioso. Cioè, c'è uno scenario incredibile quest'anno di situazioni complesse. Ecco, allora, partiamo dall'idea che non c'è una ricetta. Io vi racconto qual è il punto di discussione, di condivisione a cui siamo arrivati fino ad oggi, su alcuni temi, e poi apriamo la discussione dandoci, come dire, un possibile contributo reciproco. Cioè, io vorrei andare via da qui con qualche indicazione, suggerimento, idea ulteriore. E spero di lasciare a voi, come dire, anche condividendolo assieme, un modo, come dire, per affrontare i problemi che abbiamo tutti i giorni. Quindi io proverò a fare il punto delle valutazioni che noi abbiamo fatto e delle indicazioni da dare sulle questioni complesse, delicate che ci sono state, a partire dal bonus e la contrattazione, cioè una prima valutazione per, come dire, approcciare l'anno nuovo, è quello di condividere com'è andata, cioè fare delle valutazioni su quello che è successo quest'anno, quali sono i problemi che ci sono stati, quali sono, cosa è accaduto nelle scuole, perché è accaduto tutto il contrario di tutto. Registriamo situazioni completamente diverse. Vedere un attimo com'è andata la vicenda della mobilità, la vicenda che sono gli aspetti delicati, insomma, bonus, mobilità. La questione dell'attribuzione degli incarichi triennali da parte dei dirigenti, che come sappiamo sono i punti, come dire, su cui c'è battaglia a 360 gradi, perché, come dire, le stiamo sperimentando tutte come sindacato, in casa nostra, ma anche per fortuna anche a livello unitario, sulle indicazioni, sulle azioni da fare. Siamo alle iniziative dentro le scuole, siamo alle vertenze giuridiche, siamo anche, come dire, siamo in attesa di sapere se anche l'impegno e il lavoro gravoso che abbiamo fatto sulla strada, sul percorso eventuale referendario, vediamo che tipo di opzioni ci potrà dare, ma insomma, come dire, abbiamo cercato di mettere in campo contro aspetti della 107 che abbiamo giudicato assolutamente inaccettabili, tutte le azioni, possibili. C'è un tema di grande attualità che è l'utilizzo dell'organico potenziato, o meglio, è improprio chiamarlo così, poi entreremo più nel dettaglio, diciamo utilizzo dell'organico dell'autonomia. In poche parole, proviamo a condividere, a fare il punto assieme sugli effetti della legge 107 a 360 gradi, cioè dentro le scuole, sulle relazioni sindacali. Qual è il ruolo dell'RSU? Perché immagino che poi nei prossimi giorni tutti voi farete il punto di questi problemi anche con l'RSU per cercare di condividere le cose da fare, le indicazioni, cioè darsi un piano di lavoro assieme per i prossimi mesi e ricordare anche le competenze degli organi collegiali, perché questo è uno degli elementi di debolezza che abbiamo registrato quest'anno. La 107 e anche certi istituti introdotti con la 107, vuoi il bonus, vuoi adesso la questione dell'utilizzo dell'organico dell'autonomia, rilancia il ruolo degli organi collegiali. E qui c'è una scommessa, o siamo, come dire, o condividiamo dentro le scuole che c'è un ruolo degli organi collegiali importanti e ne rivendichiamo, come dire, lo rivendichiamo questo ruolo. Oppure sappiamo già che alcune partite sono perse in partenza, insomma, se dentro gli organi collegiali non si riprende una discussione. Poi un flash molto rapido, perché anche questo sarà l'impegno, cioè sarà il tema che ci occuperà nei prossimi mesi, è la questione del rinnovo del contratto, insomma. Il nostro impegno prioritario nei prossimi mesi sarà questo, riconquistare il contratto. Sapete che c'è stato l'accordo sulla ridefinizione dei nuovi comparti. Abbiamo già pubblicato delle linee guida unitarie sulle rivendicazioni. È di ieri sera un documento unitario che non ho ancora neanche letto bene, sulle azioni e sulle cose da fare, nei prossimi mesi per, come dire, tenere viva e rilanciare il tema del rinnovo contrattuale. C'è un documento, ci sono anche delle scalette per fare assemblee, perché l'obiettivo è impegnare tutte le strutture unitariamente per quanto possibile. A livello nazionale ci siamo. Il mese di ottobre, probabilmente fino a metà novembre, saremo impegnati a discutere in categoria, appunto rilanciare il tema del rinnovo del contratto come problema centrale della stagione che ci attende da qui a Natale. Perché io ricordo sempre che per rinnovare un contratto bisogna giocare due partite. Una è in senso stretto la piattaforma, le rivendicazioni, la discussione all'ARAN, ma questo è il secondo tempo della partita. Il primo tempo della partita è quella delle risorse. Sapete che la stagione autunnale è quella in cui si decide la finanziaria, si decide come investire, come destinare le risorse, e sappiamo anche bene che con il secondo tempo della partita, il rinnovo dei contratti, che è quella che in genere si gioca all'ARAN, non si rovescia mai il risultato del primo tempo. Questa è la differenza rispetto alle partite di calcio, dove uno magari sta sotto di due gol al primo tempo, se il secondo cambia qualcosa e migliora, si può anche rovesciare il risultato. Nelle partite del rinnovo del contratto questo non accade. E quindi noi dobbiamo giocare nei prossimi mesi il primo tempo di questa partita, che sono le risorse, gli investimenti per iniziare una discussione seria sul rinnovo del contratto, ma questo è uno dei, come dire, degli obiettivi prioritari. Un flash sulla situazione che abbiamo. Immagino che l'avrete notato tutti, ma c'è da qualche mese un cambio un po' di atteggiamento, di regime, no, dal nostro a partire dal nostro Presidente del Consiglio, insomma. Nonostante, come dire, gli sforzi comunicativi che vengono fatti, è oggettivamente c'è una situazione di difficoltà da parte del governo, da parte del Presidente del Consiglio, da parte del suo entourage, perché gli obiettivi che si erano dati non si stanno raggiungendo, insomma. Sono state fatte delle pessime leggi sul lavoro che hanno ridotto i diritti, ma l'occupazione non mi pare che sia, che c'è un consolidamento di nuova occupazione. C'è un problema di economia del paese che non cresce, e questo purtroppo determinerà anche nel settore nostro dei problemi, perché in una economia stagnante trovare risorse adeguate o necessarie per rinnovare il contratto non sarà un'impresa facile. Il PIL aumenta di poco e comunque siamo uno dei paesi più in difficoltà rispetto ad altri della Comunità Europea. Ecco. C'è un cambiamento di atteggiamento del governo, maggiore apertura, maggiore disponibilità, forse un tasso, come dire, di presunzione e di arroganza che si sta un po' modificando. Come sapete, rispetto a 2 anni di chiusura totale nei confronti del sindacato e delle relazioni con le parti sociali, cioè, si assiste a un cambiamento. Si ricomincia a parlare sui temi delicati quali le pensioni, ci sono tavoli aperti, il primo è stato col ministro della funzione pubblica Madia sul rinnovo dei contratti e anche su come dire, un impegno esplicito del governo a trovare le condizioni perché si possano rinnovare. Ecco, vediamo se questo produrrà perlomeno un cambio di stile. Noi, per quello che ci riguarda all'interno del Ministero, ce lo auguriamo, perché abbiamo avuto dei match molto complicati, alcuni di questi come dire, hanno portato dei risultati dal punto di vista perlomeno del condividere le regole, poi la gestione è stata disastrosa, vedi tutta la vicenda della mobilità, mentre siamo stati c'è stato un muro contro muro, per esempio sulla partita poi, come sapete, del conferimento degli incarichi, no? Tutta la vicenda della chiamata diretta, del mancato accordo sulle regole, ed è successo di tutto, appunto, perché come dire, il tutto è avvenuto senza un minimo di trasparenza, senza un minimo di regole. Rispetto al giudizio che diamo, condiviso in tutti gli incontri che abbiamo fatto, mi pare che tutti gli effetti negativi che avevamo denunciato in partenza le abbiamo come dire, provati tutti, dai difetti dai punti inaccettabili della legge 107 all'incapacità del Ministero, come dire, di gestire e governare tutta la partita. La mobilità è stato un esempio eclatante. Di fronte a un contratto che alcuni dicono abbiamo sbagliato a fare, noi, come dire, ci siamo assunti la responsabilità di quelle regole, abbiamo fatto anche una consultazione, sono state fatte delle assemblee, non mi risulta che i lavoratori non fossero d'accordo a sottoscrivere quel contratto, ma i problemi ci sono stati. E perché ci sono stati? Non perché il contratto non avesse stabilito delle regole più o meno condivise. Ovviamente non tutto quello che siamo riusciti a portare a casa era soddisfacente, perché come sapete ci sono dei vincoli di legge non modificabili dopo il decreto Brunetta con un contratto. Però abbiamo portato a casa perlomeno delle regole, dei criteri, dei principi e delle tutele che poi sono andate nel pallone, ma non per colpa del contratto, ma perché l'amministrazione non è stata capace di gestirla. Sappiamo tutti che ci sono stati migliaia di errori che non si giustificano, anche di natura molto diversa, che lasciano pensare che non ci sia stata un'intenzionalità in questi errori, ma proprio un'incapacità, come dire, di tradurre delle regole in un programma informatico che corrispondesse a quelle regole. Per cui si sono sommati 2 effetti, no? Il malcontento di chi neoassunto non è riuscito a trovare una sistemazione, diciamo, come desiderata nelle sue aspettative, il tutto aggravato dall'assenza di certezza sul rispetto delle regole, cioè il fatto che ci sono stati errori eclatanti, ci sono persone che hanno ottenuto dei risultati a cui non avevano diritto in base alle regole pattuite, in base al punteggio, in base alla fase, eccetera, ed altri invece che si sono visti negati alcuni diritti. Quindi quello che è stato definito un esodo come situazione inaccettabile, in realtà noi sapevamo tutti che i posti non erano sufficienti per soddisfare tutti, come sapevamo altrettanto in anticipo che se uno più anziano doveva riavvicinarsi nella sua territorio d'origine, questo avrebbe diminuito ancor più le possibilità per i neoassunti, come dire, di trovare una sistemazione vicino casa. Ma questo, come dire, sta nella logica delle cose, che chi ha meno punti, chi è neoassunto, chi è giovane, ha meno diritti di altri e quindi è normale che si ottengano certi risultati. La situazione è diventata esplosiva quando le regole non sono chiare, quando come dire, i diritti non sono stati rispettati, i punteggi non sono stati rispettati, le fasi non sono state rispettate. Quindi, come dire, questo è quello che secondo me è stata la miccia che ha fatto esplodere tutto il disagio, tutti i problemi, tutte le legittime proteste, e però facendo un po' confusione, poi c'è chi la fa artatamente, nell'individuare chi sono le responsabilità. Un conto è la responsabilità del Ministero per l'incapacità di elaborare un programma nella seconda fase della mobilità, perché nella prima non ci sono stati errori, la prima era quella consolidata. Ma siccome tecnicamente ci hanno spiegato durante la trattativa che non era possibile tenere assieme la mobilità su scuola come preferenza con le vecchie regole, quindi la fase A, dalla mobilità che ci ha imposto la legge 107, cioè su tutta Italia, su tutti i posti e su tutti gli ambiti, e quindi con 400 preferenze che d'ufficio in tutte le domande di chi ha partecipato alla fase B, sto parlando dei neoimmessi, quindi esclusi gli anziani che avevano diritto a indicare loro delle preferenze, ma insomma sempre una mobilità che girava su ambito, l'impossibilità di tenere assieme queste due fasi e la complicazione di essere passati dalle tre fasi storiche che venivano fatte in contemporanea per ogni grado di scuola. Aver separato la mobilità provinciale su scuola dalla mobilità interprovinciale su tutta Italia, tra di loro, questo ha prodotto, come dire, tutta una serie di ingiustizie. Faccio un esempio: un perdente posto trasferito d'ufficio che ha chiesto di rientrare a scuola non c'era posto nella mobilità di fase A, cioè nella mobilità provinciale, non l'ha ottenuto. Chiusa quella mobilità, si è aperta la fase 2, la fase B, ci sono persone assunte prima del 2014, del 2015-16 che magari sono riuscite a tornare a casa liberando un posto, su quel posto non c'è potuto andare il perdente posto nella fase A perché nel frattempo si era chiusa, e ci sono finiti dei docenti neoassunti. Questa è una di quelle ingiustizie che è difficile spiegare, dovuta da che cosa? Dal fatto che siamo stati costretti a fare due mobilità distinte, separate fra di loro. Chiusa la prima, quella su sede, si è avviata la seconda e non si è più riaperta la prima per ottimizzare, per usare un termine gergale, no? Ottimizzare le disponibilità che si sarebbero liberate nella seconda fase. Questa è stata una delle ingiustizie che abbiamo dovuto subire. Non la faccio lunga, comunque era impossibile dal punto di vista tecnico. Già abbiamo sperimentato che fare tutta la seconda fase solo su ambito, su tutta Italia, già quella ha fatto tilt. Figuriamoci se avessero assemblato assieme, perché ottimizzare i posti significa che ogni volta che con le fasi successive si libera un posto devo ripartire da capo e tenere assieme la mobilità su scuola con le vecchie regole, quella su ambito, 480 preferenze sostanzialmente, perché d'ufficio per 60-70 mila persone gliel'hanno aggiunte d'ufficio, tecnicamente era una cosa impossibile. Il risultato qual è stato? Che la prima parte della mobilità sono state rispettate le regole, non ci sono stati problemi, tutti i problemi sono stati sulla seconda. ma non tanto per il contratto in sé, perché era noto, le regole erano note, si sapeva che c'erano tutta una serie di fasi, con dei punti condivisi o meno, ma insomma le regole c'erano, il problema è che non sono state rispettate. E ci sono errori seriali inspiegabili, due o tre li hanno corretti dopo gli errori della primaria, infatti nella secondaria e secondo grado, come dire, gli errori si sono, perlomeno non ci sono stati quelli che hanno prodotto migliaia di casi. L'amministrazione non l'ha voluto mai ammettere di aver sbagliato, ha detto la procedura complessa, il doppio delle domande rispetto agli anni passati, proviamo, come dire, a trovare dei correttivi, ma totale indisponibilità a rifare le operazioni, anche perché, diciamocelo fra di noi, rifare le operazioni avrebbe significato modificare il programma, perché se rifaccio l'operazione con lo stesso programma il risultato è lo stesso, quindi bisognava modificare il programma, reinserire tutti i dati e far ripartire la macchina con i tempi a cui si era arrivati, perché gli errori della primaria si sono verificati a fine luglio, i trasferimenti della secondaria sono arrivati il 13 intorno a Ferragosto, è chiaro che non era possibile ripartire da capo, riazzerare tutto, e quindi e c'è stata un po' la presa in giro della conciliazione, che non è una vera conciliazione, in realtà è preso atto dell'elenco di chi dichiarava di aver subito un torto, fatto l'accertamento da parte degli uffici territoriali, i quali se era infondato il reclamo non lo inoltravano neanche al Ministero, il Ministero si è visto arrivare una mole di richieste di conciliazione, ha provato a soddisfare il possibile, ma utilizzando quale criterio però? Utilizzando solo i posti che erano rimasti disponibili, cioè senza andare a togliere a chi illegittimamente aveva avuto un beneficio a discapito di un altro, perché quando c'è un ricorso normalmente si fa questo. Quindi i posti disponibili erano pochi, rispetto a 4.000 rotte domande inoltrate dagli uffici, perché poi alcune sono state fermate dagli uffici e quindi neanche sono arrivate al Ministero, nella primaria sono state proposte 2.600 conciliazioni. Ne sono state accettate una metà di queste dai dati che ci sta fornendo il Ministero. Perché? Perché vuol dire che le altre erano una sorta di presa in giro. Cioè uno che aveva diritto a rimanere in regione ed è finito a 500 chilometri, magari gli proponevano una sede a 450 chilometri piuttosto che a 500, perché non c'erano, come dire, posti residui sufficienti per dare quanto quello a cui avrebbero avuto diritto se i trasferimenti fossero stati corretti. Adesso non entriamo, come dire, non entriamo nel merito, ma insomma c'è stato, questo è uno degli effetti, come dire, di una legge che si è avvocato a sé una materia, quella della mobilità, che per legge, cioè che fino a quest'anno era regolata dai contratti. L'hanno voluta rilegificare, hanno imposto per legge dei paletti insormontabili, l'idea che facendo girare per tutta Italia avrebbero risolto tutti i problemi si è dimostrata un'idea farlocca, perché il vero problema è che ci sono territori dove ci sono stati molti assunti, perché le liste che hanno cercato di sfoltire erano lunghissime, ma i posti in quei territori non c'erano. Quindi è l'idea che facendo girare tutti per tutta Italia si sarebbe risolto il problema è un'idea viziata in partenza, che però ha imposto dei paletti alla mobilità e i risultati sono stati disastrosi. Un avvio dell'anno scolastico molto complicato. L'altro tema è quello del bonus, su cui dovremmo fare il punto, perché immagino che le vostre RSU o già nella scuola vi chiedano: ma adesso che si fa? Cosa facciamo sul bonus? Allora, noi, l'idea, le linee, le indicazioni che abbiamo dato l'anno scorso pensiamo che siano tutte da riproporre, ovvero noi siamo convinti che dobbiamo riproporre una gestione condivisa all'interno delle scuole, con un ruolo del collegio docenti, un ruolo del consiglio d'istituto e anche un ruolo dell'RSU, del sindacato. Sono state le indicazioni dell'anno scorso, adesso siamo in grado di verificare quello che è accaduto. Noi abbiamo fatto un sondaggio molto parziale che adesso vi racconto in due parole. Riteniamo che le indicazioni date lo scorso anno, almeno nella discussione che abbiamo fatto fra di noi e nel giro che abbiamo fatto con il quadro dirigente territoriale, siano sostanzialmente tutte da riproporre. Stiamo valutando, perché l'impegno lo avevamo preso, di verificare quei casi di possibile contenzioso da portare davanti al giudice rispetto alla gestione del bonus, perché anche questa è una partita delicata. Cioè, siamo tutti convinti che di fronte alla lettura e all'interpretazione della 107, così come abbiamo vissuto negli ultimi anni l'interpretazione del decreto Brunetta, non c'è la soluzione, la via legale al socialismo non ci porta da nessuna parte, perché le soluzioni possibili sono due: o politica, nel senso di rimettere in discussione passaggi delle leggi, valeva per Brunetta, vale per alcuni passaggi della 107, oppure l'altra strada possibile è il rinnovo del contratto nazionale del lavoro, perché lì il problema verrà fuori tutto. Cioè, lì noi chiuderemo un contratto se un quadro di regole verrà ripristinato da questo punto di vista. No, la stessa cosa, come dire, vale per la legge 107. Quindi noi tenteremo, nei confronti di quanto è accaduto in alcune scuole dove c'è stata una posizione, diciamo, le indicazioni che dava l'ANP, in sostanza in un terzo di scuole i dirigenti se la sono suonata e cantata senza, come dire, attivare percorsi di condivisione né in collegio né... Ecco, lì dobbiamo trovare quelle situazioni particolari e tenteremo anche, sta valutando l'ufficio vertenze nazionale, il legale nazionale, quali azioni portare davanti al giudice, sapendo che davanti al giudice è meglio vincere tre cause che farne 20 e perdere una metà vincerle, perché questo film, come dire, l'abbiamo già visto sul Brunetta sì, Brunetta no, rispetto ad alcune classi di, alcune, come dire, materie oggetto di contrattazione. Quindi il nostro obiettivo è la 107 ha un obiettivo chiaro, che noi vogliamo che sia rimesso in discussione, cioè quella di mettere in un angolo il sindacato, il ruolo del sindacato, estromettere le parti sociali dai luoghi di decisione, per cui, per quello che ci riguarda, un punto dobbiamo ribadire, cioè che noi il nostro obiettivo primario rimane quello della cancellazione di alcune parti della 107. I due punti proprio che sono all'apice, come sappiamo tutti, è la questione del bonus, della valutazione così come concepita dalla legge 107, e la questione della chiamata diretta. Poi ci sono tutta un'altra serie di aspetti, come dire, che non sono mediabili, e quindi bisogna abrogare parti della legge. Questo rimane il nostro obiettivo. Nel frattempo però, che si fa nel frattempo di fare questo? Vediamo come va il referendum, vediamo l'azione politica cosa produrrà, vediamo se ci sarà un cambio di atteggiamento e maggiore disponibilità alla discussione. Ci sono state qua e là dichiarazioni di apertura a rivedere alcune parti anche della 107 che hanno che hanno creato dei problemi dal punto di vista applicativo. Nel frattempo che si fa, insomma? Il nostro obiettivo deve essere sempre quello, cioè rinnovare i contratti di istituto il più possibile, condividere l'obiettivo di portare dentro alla discussione nelle relazioni sindacali la gestione di tutte le risorse, comprese le risorse del bonus, quindi in collegio la condivisione per quanto riguarda, come dire, le attività da valorizzare con quelle risorse, il comitato di valutazione che dovrebbe interloquire con il collegio, avere un mandato a definire criteri che escludano, diciamo così, la valutazione discrezionale individuale del dirigente scolastico, mentre riconosca il lavoro aggiuntivo, e poi una condivisione sull'uso delle risorse. Questo era lo schema, diciamo, delle linee guida che abbiamo dato l'anno scorso. Noi le abbiamo aggiornate con alcuni elementi di valutazione critica di quanto è avvenuto. Le abbiamo già date a tutti i territori, ma non so se poi i territori le hanno date a tutti. Cioè, quanti di voi, per esempio, hanno visto questo fascicolo di inizio anno? Ecco, se l'avete visto bene, è uno dei materiali, come dire, che mettiamo a disposizione perché si possano fare incontri e dare indicazioni alle RSO. Rispetto al bonus, facciamo un attimo il punto sul bonus e poi facciamo il punto sulla gestione dell'organico dell'autonomia e in coda al rinnovo dei contratti. Vi dicevo che noi abbiamo fatto un'indagine, non è un'indagine scientifica, perché prima dell'estate è stata mandata un questionario a tutti gli indirizzi di RSU che avevamo, hanno risposto in 510 RSU al questionario, che è abbastanza significativo perché? Perché ci sono tutti i gradi di scuola, il 40% sono istituti comprensivi, poi ci sono alcuni circoli, alcune scuole medie, un 30% scuole secondarie di secondo grado. E ci sono arrivate a risposte un po' sia dal nord, dal centro che dal sud. Quindi da questo punto di vista è significativo. È la raccolta di 510 questionari. Le domande che avevamo fatto sono: ma le risorse economiche del bonus sono state oggetto di contratto di intesa sindacale tra RSU e dirigente scolastico? Queste 510 RSU che ci hanno risposto ci hanno detto che nel 28% dei casi hanno stipulato un contratto, che hanno firmato, come dire, un'intesa esplicita. Nel 71% no. Poi quel 71% è molto variegato. Qual è il risultato? È buono? Non è buono? Dai giri che abbiamo fatto, noi pensiamo che il risultato sia anche leggermente migliore di quello che emerge da questo sondaggio di 510 RSU. Cioè possiamo, io la fotografia di quello che è avvenuto la riassumerei così più o meno. In circa un terzo per cento delle scuole, in un terzo, intorno al 30%, 33%, c'è stato un livello buono di condivisione sull'uso di queste risorse. Un terzo di scuole sono state così così, cioè c'è stata una sufficiente discussione, sufficiente, come dire, anche condivisione, ma non tradotta in un atto esplicito. Io non so quello che è successo nelle vostre scuole, ma in molte scuole ci dicono che si è condiviso tutto, però alla fine, come dire, non ce se l'è sentita da parte in particolare del dirigente di firmare un atto formale, perché poi avevano la preoccupazione o la paura di mandarlo a revisori, che questo venisse censurato, eccetera, eccetera. Però, come dire, su come usare le risorse c'è stato un dibattito, mettiamola così. Un terzo delle scuole invece i dirigenti come dire, hanno deciso che era materia esclusiva loro e quindi hanno operato di conseguenza. Altra domanda, i criteri adottati dal comitato di valutazione sono stati discussi in collegio docenti prima o no? Tenete presente che l'anno scorso era anche un anno un po' complicato perché le riunioni di inizio anno, questo non era un tema all'ordine del giorno. Poi via via è venuto fuori un po' nei mesi successivi, poi c'è stata una pausa perché non si sapeva nulla neanche delle risorse, poi c'è stato un picco, ma eravamo già alla fine dell'anno. Quindi un anno un po' particolare, cioè non ha agevolato la discussione. Molti docenti non sapevano nemmeno di che cosa parlavamo, perché non lo sapevano. Quindi, ecco, per cui questa situazione quest'anno ci dovrebbe essere quantomeno una maggiore consapevolezza, perché, come dire, un anno già è passato. Ma comunque nel sondaggio che abbiamo fatto, quasi la metà, il 44%, ci hanno detto che la discussione nel collegio docenti della loro scuola è stata fatta. Quindi, come dire, che c'è stata una sorta di relazione tra la discussione in collegio, l'elezione del comitato di valutazione e i criteri che poi sono stati dati. Altra domanda interessante: quanti sono i docenti destinatari del bonus? Queste 510 scuole, 510 RSU, ci dicono che lo hanno percepito nella scuola loro il 47% dei docenti, poco più della metà, il 52%, non sono stati destinatari di nulla. Ecco, anche questo è un dato. Come dire, non so come lo giudicate voi, a noi non sembra brutto, nel senso che non c'è stata una individuazione di un gruppo ristretto di docenti super premiati, fatemela dire così, è brutto, ma per capirci. Cioè c'è stata un po', come dire, una sorta di ampia partecipazione a questa partita, diciamo, a questo riconoscimento. L'importo medio che viene fuori da questi dati è di 539 euro, che è l'importo che risulta in base alla ripartizione che ci hanno segnalato, ripeto, queste 510 scuole. Non finirò mai di ripeterlo perché non è un sondaggio, come dire, scientifico. L'altro interessante è i criteri sui quali, sulla base dei quali è stato attribuito il bonus, perché anche questo è indicativo. Se andiamo a vedere i tre elementi più gettonati, 78, 87, 72%, sono attività di innovazione e ricerca, responsabilità organizzative, attività, incarichi deliberati in collegio. Questi sono stati i tre elementi preponderanti per dare questo beneficio, al di là se poi è passato in contrattazione o meno. Quello, diciamo, che è meno rilevante, ma comunque che ci dà maggiore, cioè che ci dà preoccupazione, è il primo, cioè che nella metà di queste scuole la qualità dell'insegnamento è stato uno degli elementi che, come dire, ha contribuito all'assegnazione di questo riconoscimento. L'altro, che è meno incisivo ma altrettanto preoccupante, perché sono i due che noi proponevamo di escludere, no? Nei criteri da parte del comitato di valutazione o anche del collegio, è il successo formativo degli alunni. Quindi, che dire, che gli elementi preponderanti sono stati il riconoscimento dell'impegno e del lavoro come elemento per conferire l'attribuzione di questo beneficio. Però c'è una quantità significativa anche di scuole che si sono basate su una valutazione della qualità della prestazione del docente, che è l'elemento, come dire, per noi inaccettabile. Poi abbiamo chiesto all'RSU: qual è il giudizio che dai nella scuola tua su tutta questa vicenda? Beh, del tutto positivo, come vedete, è residuale, il 3,3%, parzialmente positivo il 22,5%. Se sommiamo queste due fettine, mi pare che coincida con la prima iniziale, che in un terzo di scuole, per approssimare, perché ripeto, dalla discussione che abbiamo fatto in giro, questo dato sembra migliore, perché sono più di un terzo delle scuole, sono almeno un terzo delle scuole quelle dove o un'intesa o un contratto vero e proprio l'hanno fatto, ma coincide anche col giudizio che le nostre RSU hanno dato di questa partita. Prevalentemente negativo è il 33%, del tutto negativo è il 40%. Quindi, in poche parole, il giudizio è per tre quarti negativo e per un quarto o poco più positivo di questa vicenda. Su cosa si sono basati i dirigenti scolastici per dare questo riconoscimento? Anche questo è un dato, io penso, interessante. Vedete, l'87% sull'autocertificazione, cioè alla fine probabilmente i dirigenti hanno chiesto di autocertificare le attività svolte, ed è questo l'elemento preponderante, mentre tutte quelle cose molto, come dire, singolari che si erano inventate e che sono girate sui giornali, tipo la visita in classe del dirigente, tipo i test fatti, questionari fatti ai studenti e questionari fatti alle famiglie per esprimere un giudizio sulla qualità dell'insegnante, ci sono, ma non sono stati l'elemento preponderante, insomma, stanno complessivamente intorno al 10% di chi si è inventato, diciamo, criteri per individuare le persone, ma il grosso si è basato sulla rendicontazione di fine anno di quei docenti che, diciamo, volontariamente hanno partecipato a questa possibilità, perché poi sappiamo che molti docenti si sono rifiutati, addirittura c'è qualcuno che ha restituito i soldi alla scuola, tipo il bonus della formazione, perché hanno ricevuto un compenso che non intendevano accettare. Quindi, a conclusione del giudizio che ci siamo fatti, della discussione fra di noi in tutti questi attivi, di questo anche, come dire, sondaggio che abbiamo fatto, vi tengo presente che il sondaggio l'abbiamo iniziato a luglio e l'abbiamo chiuso il 20 agosto perché dovevamo tabulare i risultati per il primo seminario regionale che è stato fatto il 29 di agosto. Voglio dire, tutte queste considerazioni ci portano a confermare, ditemi voi se poi lo condividete o meno, fino ad oggi, la correttezza e la riproposizione degli obiettivi che ci eravamo dati l'anno scorso. Cioè, l'obiettivo dal nostro punto di vista deve essere, dentro le scuole, quello di cercare di ricondurre all'interno delle relazioni sindacali e quindi del patto negoziale la gestione delle risorse e anche la definizione degli importi, insomma. Credo che questo sia un obiettivo da confermarsi. Così come la contrattazione, che nessuno almeno fino ad oggi ha messo in discussione, cioè quella sul fondo, che speriamo inizi prima possibile, perché noi siamo impegnati a tallonare il Ministero perché Mandi si era impegnato a farlo entro settembre, stiamo quasi alla fine, vediamo se questa comunicazione arriva, anche perché non ci sono novità, quindi ci sarebbero tutti gli elementi quantomeno per comunicare i parametri per l'attribuzione del FIS in modo tale da consentire una discussione conoscendo anche l'importo che c'è. Ma insomma, l'altra indicazione è quella di discutere contestualmente delle due risorse, dei due pacchetti di risorse. Perché, se l'obiettivo nostro è quello di utilizzare queste risorse per riconoscere, anche individuando elementi di qualità discussi in collegio, che cosa alla fine? Il lavoro aggiuntivo, le responsabilità, il contributo che si dà sia sul versante didattico che sul versante organizzativo al miglioramento della scuola, cioè su questo siamo, che erano le finalità storiche del fondo. Noi abbiamo sempre detto questi 200 milioni li consideriamo un parziale risarcimento di quanto, per effetto del recupero dei 2 anni del blocco degli scatti, abbiamo perso, sono state sottratte dal fondo, ricordando che queste risorse vanno solo ai docenti e solo ai docenti di ruolo. Dopodiché, esclusa la valutazione discrezionale unilaterale della qualità della prestazione o del risultato degli studenti di ciascun docente, se escludiamo questo, tutti quegli altri criteri definiti dalla legge e che noi auspichiamo siano recepiti dal comitato di valutazione, che è quello che ha maggiore autorevolezza a condizionare il dirigente scolastico, perché obiettivamente la legge attribuisce al comitato di valutazione la definizione dei criteri all'interno dei quali il dirigente scolastico opera per attribuire queste risorse. Quindi ci deve essere una condivisione, una discussione in concomitanza. Il problema è limitare, fatemela dire così, l'autonomia del comitato di valutazione. Se abbiamo eletto degli intellettuali che hanno un'idea stravagante sul lavoro docente, su come deve essere riconosciuto, eccetera, senza alcun legame tra il sentire prevalente del collegio e il mandato che si dà a chi viene eletto, le cose sono complicate, perché possiamo fare una bella discussione in collegio, condividere obiettivi e finalità, ma se poi il comitato di valutazione dà dei criteri in totale autonomia in modo stravagante, oppure avalla l'orientamento del dirigente scolastico, diventa tutto più complicato. Dobbiamo essere consapevoli che l'organismo che può legare di più le mani al dirigente scolastico in base alla 107 è il comitato di valutazione, che però non è un organismo che ci impone qualcuno dall'alto, è un organismo che nasce all'interno della scuola, dove è preponderante la presenza dei docenti, e quindi il difficile è costruire un nesso tra chi elegge, chi nomina queste persone e il mandato che si dà. Quindi, ricapitolando e chiudo questa discussione, le cose da fare in collegio. In questi giorni probabilmente si sta discutendo di questo, cioè si sta adeguando il POF in relazione anche alle persone che mi sono arrivato, ed è il ragionamento che faremo fra un attimo. Questa discussione dovrebbe essere fatta, si delibera il piano delle attività, si concordano i progetti, si dovrebbe anche discutere in collegio quali sono quelle attività particolarmente caratterizzanti per la scuola, importanti per la scuola, quelli che identificano, che danno la carta d'identità a quella scuola, che sia giusto che quelle attività vengano riconosciute, ma dal punto di vista, ripeto, delle responsabilità, del lavoro e dell'impegno aggiuntivo. Ecco, questa discussione la dobbiamo rilanciare all'interno del collegio in maniera da creare un rapporto stretto con il comitato di valutazione. La seconda cosa da fare è che sono le indicazioni che diamo alle nostre RSU. La prima indicazione è chiedere un incontro al dirigente per fare una discussione serena, possibilmente su come è andata, cioè tirare un po' le fila il primo anno di esperienza di questo nuovo istituto, con tutti i problemi che ci sono stati durante l'anno per avere la situazione chiara, eccetera, eccetera, com'è andata. Non dimentichiamoci mai in questi incontri di ricordare quali sono le competenze dei vari soggetti, insomma, il diritto dell'RSU, ma anche come dire, le competenze degli organi collegiali. Insomma, il dirigente scolastico, anche dopo la 107, è il soggetto che ha la responsabilità di fare gli atti di gestione. Tutti gli atti di gestione sono competenza del dirigente, ma non li decide da solo a secondo degli orientamenti che si dà, insomma. Sono competenze del Consiglio d'Istituto, competenze del Collegio Docenti e competenze per quanto riguarda il lavoro e il salario anche della contrattazione. Un pezzetto delicato che dobbiamo ricordare al RSU è sta storia dello staff, del 10%. Allora, qui io la direi in maniera molto. La legge 107 peggiora quello che c'era prima. Perché dal 2001, che nell'articolo 25 del testo unico del pubblico impiego, decreto legislativo 165, che è quello che definisce il profilo del dirigente scolastico, c'era scritto dal 2001 che il dirigente scolastico può avvalersi della collaborazione del personale docente della scuola. E non c'erano tetti. Poteva fare. Dal punto di vista del contratto, cos'è che abbiamo detto però poi? Che tu, dirigente, nella tua autonomia, perché affidi responsabilità tue, quindi ci deve essere, come dire, un patto di collaborazione e anche un aspetto fiduciario reciproco, puoi fare quello che ti pare, ma sappi che poi con il contratto ne paghiamo due di collaboratori. Altra cosa è se tutte quelle esigenze, di affidamento di incarichi di altre attività sono discusse in collegio e individuate assieme dal punto di vista delle responsabilità. È chiaro cosa voglio dire? Cioè, non bastano i due collaboratori, il vicario e il secondo. Servono quelli che sono responsabili di plesso, coordinatore dei progetti, responsabili di biennio, triennio, di area. Benissimo. Tutte attività utili e importanti alla scuola. Qual è il discrimine? Chi le decide e chi individua le persone che svolgono quelle attività. Qui questo deve essere l'elemento chiaro che dobbiamo ricordare alla nostra relazione. Lì decide il dirigente perché utilizza questo passaggio della 107 fino al 10%, sceglie lui le persone, sceglie lui quali sono gli incarichi che servono alla scuola. Beh, se è così ne derivano certe conseguenze. Cioè che col fondo queste persone non si pagano, punto. Perché l'articolo 88,2, se lo si va a rileggere, c'è scritto che è possibile pagare col fondo altre attività e incarichi, tra parentesi, non solo per i docenti, ma anche per gli ATA, ma deliberate nell'ambito del POF. E deliberate nell'ambito del POF che vuol dire? Che sia l'attività che anche i criteri di assegnazione o stanno all'interno della discussione, condivisa in collegio. Oppure le attività comunque stanno nel piano delle attività deliberate del collegio e i criteri di individuazione li si condivide in sede di contrattazione, le due l'una. Se c'è questo passaggio, allora è legittimo pagare col fondo perché il contratto lo prevede. Se è una scelta unilaterale, sia sull'attività da svolgere, quindi fuori dal POF, condiviso e approvato dal collegio, come anche scelta unilaterale delle persone a cui affidare questi incarichi, siamo fuori dal contratto, è un abuso anche rispetto alla competenza degli organi collegiali e quindi lì dobbiamo farne un elemento di irricevibilità quando poi ci si siede al tavolo, della contrattazione sulle risorse del Fonus. C'è poi un terzo passaggio che arriva fra un po', qui volevo fare una piccola digressione. Si fa l'incontro per chiedere com'è andata. Allora qui abbiamo subito un problema. Quali sono i dati, cosa ha diritto la RSU, cosa ha diritto la scuola. Se Allora, a proposito della comunicazione sull'utilizzo delle risorse del bonus, la scuola ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito alcune cose. Allora, non basta l'articolo 6, cioè il diritto storico dell'RSU ad avere l'informazione successiva su tutti i nominativi e su come sono state usate le risorse. Attenzione, non i compensi individuali. Non è sufficiente quello? Beh, possiamo citare quello che ha scritto il Ministero e possiamo citare quello che ha scritto l'Autorità Nazionale Anticorruzione su questo, sulla trasparenza. Cioè c'è un obbligo alla trasparenza su questo. La FAQ numero 20 la conoscete tutti? No. Allora, fatemi fare... Proviamo a leggerla assieme, perché questo è uno dei punti delicati. No, le nostre RSU chiedono un incontro, il dirigente dice: a te non ti do niente. Cioè, questo è uno dei punti. Probabilmente in quel 30% di scuole che non hanno condiviso nulla, l'atteggiamento del dirigente sicuramente sarà questo. Allora, questa è la FAQ che ha scritto il Ministero. Come dare trasparenza alle scelte e come pubblicare i dati sull'assegnazione del bonus? La trovate sul sito del Ministero, la FAQ numero 20. Il Ministero risponde: per dare evidenza alle scelte e per promuovere un processo di condivisione risulta determinante innanzitutto pubblicare i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione. Quindi questo è un primo elemento. I criteri del Comitato di Valutazione devono essere pubblici, perché il dirigente poi, quando riconosce il beneficio, lo deve collegare al criterio, è obbligato, lo deve motivare perché a Giovanni, Andrea e Maria ha dato un riconoscimento economico, e lo deve motivare in relazione ai criteri. Quindi questo è un primo elemento di trasparenza, vanno, come dire, resi pubblici. Mentre in merito alla pubblicazione dei premi per i singoli docenti, mancando un'indicazione di riferimento specifica per la scuola, si riferisce alla 107, ma in generale immagino anche al contratto, è opportuno fare riferimento al decreto legislativo 33 del 2013, come aggiornato dal decreto legislativo 971 del 2016, in vigore dal 23 giugno, articolo 20,1, in cui si evidenzia che le pubbliche, e quindi riporta un pezzo del decreto legislativo, quello sulla trasparenza. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, cioè deve pubblicare il numero dei premi e l'ammontare delle risorse che sono state erogate. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione, e fa il paio con l'affermazione sopra, e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione in forma aggregata al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi, nonché dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. Inoltre risulta quanto mai opportuno che il dirigente scolastico comunichi le motivazioni delle sue scelte al comitato di valutazione e a tutta la comunità professionale. Quindi deve essere un atto, a prescindere che l'RSU lo chieda, un atto pubblico che deve essere pubblicato nel singolo, non legati ai singoli docenti, proprio per una continua regolazione e qualificazione del processo. Quindi, se possiamo riassumere, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sintetizzo, cos'è che dice che bisogna pubblicare? La distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi. Per il dirigente, questa roba, c'è il link ai siti dell'USR dove deve pubblicare questi dati. Quindi, riassumendo, quali dati e quali tabelle è tenuto a pubblicare il dirigente scolastico? L'importo totale, lordo dipendente e i dati statistici della distribuzione, cioè il numero di docenti retribuiti, la percentuale sui docenti di ruolo della scuola e poi i dati statistici quali la media, moda, mediana e range. Range si intende la differenza tra il minimo e il massimo. Eventuale distribuzione per criteri. Quindi, riassumendo, i criteri sono un obbligo. I dati raggruppati di come ha utilizzato le risorse collegati al criterio sono oggetto di pubblicazione. Abbiamo diritto a chiederli, ha il dovere il dirigente di pubblicarla nel sito della scuola, e quindi nel primo incontro almeno spero che su questo, come dire, non ci siano dei dubbi, altrimenti bisognerà, come dire, fare delle diffide e fare anche degli esposti all'amministrazione regionale, perché invidi il dirigente a ottemperare rispetto a quanto. Qui c'è la solita querelle di alcune RSU nostre, alcuni nostri iscritti che vogliono sapere il dato personale. Il dato personale, c'è la privacy, come sappiamo, l'ha detto ampiamente anche il garante, quindi come dire, è un dato che non. Cioè? Il garante si è espresso in 2014, le linee guida sono state licenziate ad aprile e a giugno è diventato operativo il FOIA. Sì, ma sostanzialmente comunque la. Perché queste cose hanno a che fare con la premialità, ma su invece nell'allegato 1, quando parla di incarichi aggiuntivi, persone docente, persone reale, individua il rischio della corruzione, dei favoritismi, e individua il processo che previene e dice vanno pubblicati i criteri, esplicitati pure con comunicati con circolare e via dicendo, che saranno pubblicati gli incarichi con i relativi compensi attribuiti. Quindi questa è la parte relativa alla premialità che l'hanno edulcorata, ma la parte relativa al fondo di istituto incarichi attribuiti, okay, però l'ANAC dice che vanno pubblicati. Diciamo, fermo restando che una cosa è la pubblicazione e una cosa l'accesso. L'accesso deve essere un accesso civico che è indifferente rispetto al diritto, cioè non c'è più bisogno di avere un interesse diretto per avere l'accesso agli atti della pubblica amministrazione. Per cui una cosa è pubblicare e là possiamo andarsela a discutere, insomma, ma una cosa è avere i dati. Comunque, non ne facciamo un punto, non diamo indicazione all'RSU di esigere un dato che sappiamo non è esigibile dal punto di vista del contratto, perché non lo dice il contratto stesso, tra l'altro, perché come sappiamo nel contratto, se andiamo a vedere l'articolo 6, dice che il diritto di informazione successiva ce l'abbiamo sui nomi, non c'è sui compensi. Perché? Perché non siamo riusciti a ottenerla allora? Io ho molti dubbi, anche se questo è uno dei temi che sarà oggetto di discussione nella piattaforma, nelle rivendicazioni del prossimo contratto, ho molti dubbi che noi riusciremo. In realtà l'aspetto che a noi ci interessa qui è definire in maniera consensuale e contrattata l'importo dei compensi. Perché se noi riuscissimo a ottenere quello che è previsto, faccio un esempio per analogia, per le funzioni strumentali, noi per le funzioni strumentali abbiamo diritto a, il collegio decide le attività e il lavoro da fare, quante e i criteri anche di individuazione delle persone, i compensi li contrattiamo. Una volta contrattato il compenso, io penso, e questa è la mia opinione personale, che non abbiamo nessun interesse a sapere se quel docente incaricato ha preso o no quei soldi, perché è un problema suo. Io voglio sapere se tutti i soldi, diciamo il budget delle funzioni strumentali, in questo caso il budget del bono, è stato speso o meno, perché poi l'esigibilità o meno del compenso definito dal contratto è un fatto individuale. Cioè, insomma, se il tuo stipendio è corretto o scorretto non deve sapere il mondo, è un problema tuo. Il contratto ti riconosce un diritto, il dirigente, se il contratto ha stabilito per quell'incarico 1200 euro, il dirigente te l'ha dato o no? Se lo hai definito nel contratto, quello diventa un diritto esigibile per il lavoratore. Perché lo devono sapere tutti? Qual è il compenso? Cioè io questo francamente non riesco. No, verificare no, perché non ti interessa a te. Tu devi verificare se le risorse sono state utilizzate o meno e devi verificare se il numero di incarichi e le persone, quindi sui nomi abbiamo diritto, sul numero l'ha stabilito in delibera il collegio, ho diritto a verificare. I compensi li ho contrattati, ma chiedo a voi, veramente, siamo tra quadro dirigente, ma perché devo sapere il compenso individuale? A che mi serve? È un problema di quel lavoratore. Noi abbiamo 32 giorni di ferie, non, poi la chiudiamo, abbiamo 32 giorni di ferie, vero? Ma se un dirigente ha un collaboratore scolastico, gliene dà 28 e gli altri 4 non glieli dà, Ma lo dobbiamo entrare all'albo o è un problema, come dire, di quel lavoratore? Cioè, il contratto serve per cosa? Per, come dire, concordare le regole e diritti, sancire diritti, che diventano esigibili se io li scrivo nel contratto. Se quel lavoratore, il dirigente lo paga di più o di meno, di più è difficile, ma probabilmente di meno, è un problema di quel lavoratore. Quel lavoratore ha... Ma perché lo devi sapere tu? Gestiscono a modo loro, alla fine sapere o non sapere quanto ha preso uno o l'altro vuol dire anche far emergere dei favoritismi che vengono fatti, cioè delle vessazioni che vengono fatte, cioè ci sono delle questioni all'interno, ok, allora il nome e il cognome, però spesso l'applicazione del contratto non è puntuale. È stato stabilito che per fare una certa cosa c'erano 20 ore e poi invece esce fuori che quelle 20 ore sono state date. Allora, scusate, allora uno, scusate, però il tema vero di contrattazione qual è? 20 ore, ok, si è stabilito un budget. Allora, la contrattazione o stabilisce i compensi? Faccio un esempio: il coordinatore del consiglio di classe, quando gli si dà? 150 euro? Bene, è un diritto acquisito, sì. Io l'ho fatto il coordinatore, alla fine dell'anno è un problema mio se il dirigente mi paga o no. Se non mi paga lo porto dal giudice, perché il contratto ha stabilito che in base a quell'incarico che lui mi ha dato mi spettano 150 euro. Il problema è un po' più complesso se io stabilisco dei budget. In questo caso stabilisco che per l'attività aggiuntiva un tot di risorse uguale un pacchetto di ore. Ma il vero problema qual è della contrattazione? Perché alla fine quando sai il nome e se scopri che un collaboratore ha preso 40 ore, 30 ore l'ha preso uno e le altre 10 ore l'hanno preso in 6. È giusto o è sbagliato? Sicuramente è sbagliato, ma qual è il problema? Una volta che lo sai, che cosa cambia? Nulla. A meno che tu nel contratto non hai stabilito che cosa? Per esempio un criterio di equo diritto di accesso a quell'attività. Perché se io stabilisco un criterio in base al quale tutti i volontari hanno pari opportunità di, allora diventa un diritto esigibile, ma in base al criterio, ma se io so, dai, sì, però dai, non chiudiamola qui perché non ne usciamo. Io l'unica cosa che posso dire è che sarà un tema del prossimo rinnovo contrattuale. Allora, due sono le cose: o nel contratto riusciamo a scrivere che nell'informazione successiva non c'è solo gli importi raggruppati, non c'è solo i nominativi delle persone, ma c'è anche il diritto ad avere come dire, l'elenco dei nominativi associati ai compensi di ciascuno, bene. Altrimenti noi non possiamo dare questa indicazione, questo è il mio punto di vista, all'RSU, perché le mandiamo allo sbaraglio. Cioè è un risultato che oggi come oggi, in base al contesto, in base al contratto, a tutto il resto, è un diritto non esigibile. Cerchiamo di dare le indicazioni giuste all'RSU e portare a casa, come dire, il massimo del risultato. Chiudo sulla partizione del bonus. Allora, ricapitolando, il collegio sollecitare una discussione piena. Due, avviare relazioni sindacali per chiedere un incontro che parta dalle informazioni come primo passaggio. Il secondo passaggio qual è? Avviare la contrattazione sulle risorse del fondo. E qui le indicazioni sono quelle dell'anno scorso. Contrattiamo quello che è un diritto esplicito a contrattare. Sul bonus abbiamo dato come indicazione unitaria già dall'anno scorso. Siccome è un po' hard esigere dal dirigente che cosa? Che scriva nel contratto anche questa parte. Perché poi il dirigente dice ma la legge non lo prevede, tutte le indicazioni non lo prevedono, io non voglio litigare con il revisore dei conti, eccetera, eccetera. Qual è la strada alternativa? È fare, l'abbiamo chiamata come? Un'intesa, che non è un istituto di relazioni sindacali codificato, perché se andiamo a prendere il contratto nazionale, nel nostro contratto non c'è l'istituto della concertazione, che pure prevede il decreto Brunetta, non è previsto l'istituto dell'intesa. Cos'è che potremmo pretendere? Una sorta di informazione con verbalizzazione degli esiti di questa informazione, che è una variante un po' attenuata dell'intesa. Cioè, insomma, il nostro obiettivo è condividere col dirigente scolastico, con un atto scritto, che non essendo contratto non necessariamente deve andare anche alla, come dire, al controllo dei revisori dei conti, ma è un patto. Le forme di flessibilità sono tante, per questo vi dico che in quelle un terzo quasi ha fatto un contratto vero e proprio, un'intesa formale. Di quell'altro 75%, c'è un po' di tutto là dentro. Perché molti ci dicono: noi non abbiamo scritto perché dirigente, però abbiamo condiviso tutto. Il risultato è stato soddisfacente, è stato condiviso tra le parti, ma non è stato formalizzato. E allora, quali sono i suggerimenti che io darei? Contratto sarebbe l'ideale, contrattare insieme al fondo anche i criteri e i compensi addirittura per l'uso nell'uso di queste risorse. È vietato? L'hanno fatto un terzo di scuole, può essere di stimolo per chi è preoccupato a farlo magari, ma ci vuole un dirigente, come dire, coraggioso e con gli attributi e che la pensi come noi, mettiamola così. Ci stanno situazioni di disponibilità, perché io penso che la stragrande maggioranza dei dirigenti non vogliono gestire questa partita in modo conflittuale, vogliono condividere nel modo più ampio possibile. Tra l'altro, questo della condivisione di tutte le parti era anche una delle indicazioni date dallo stesso Ministero. Si tratta di stabilire come conveniamo di formalizzare questa condivisione. Un'intesa è quello che si proponeva unitariamente sin dall'anno scorso. È un po' arde anche questa, qualche dirigente non se la sente. Possiamo fare almeno un verbale che rimane fra di noi? Ci siamo visti, abbiamo discusso la materia, il dirigente ha proposto determinate cose, la RSU ha condiviso oppure ha controproposto alcune altre criteri, alla fine si arriva a un punto di condivisione. Possiamo fare un verbale e tenercelo dentro la scuola? Ecco, io credo che questi siano, come dire, allo stato attuale gli esiti possibili. L'altro qual è? Quello del conflitto. Cioè quello del dirigente, della serie, io non vedo nulla, decido da solo. Questi sono alcuni di questi casi, noi dovremmo valutare quali portare dal giudice, sapendo come è orientato il tribunale, per cui se un tribunale ci dà sempre torto perché ci sono dei giudici che sono ostili al sindacato, alle relazioni sindacali eccetera, forse non è il caso di fare il ricorso lì. Ce ne sono altri invece che sono orientati in maniera più sensibile, forse quelle sono i casi dove andare a pescare. Lo valuteremo, ripeto, ci sono dei casi al lavoro, allo studio dell'Ufficio Vertenza Nazionale, valutiamo preferibilmente unitariamente quali sono i casi da. Sicuramente i casi emblematici sono quelli del dirigente a cui è stato chiesto un incontro, gli è stato chiesto l'informazione, l'ha negata, è stato reiterato con diffida, e ci sono alcuni dirigenti che si sono rifiutati di fare qualunque cosa, cioè non hanno dato né informazione né trasparenza sui criteri, eccetera. Quelli sono i casi, come dire, più eclatanti che valuteremo. Due punti e chiudo su questa parte, sulla contrattazione. In parte l'ho detto prima, se quel pacchetto di dirigenti che della serie la legge mi dà a me mandato, decido tutto io, non condivido nulla, attenzione, invitiamo l'RSU a non sottoscrivere contratti che impegnino l'uso delle risorse del fondo per retribuire lo staff del dirigente, scelto da lui, con incarichi affidati da lui, eccetera, eccetera. Non si firma il contratto, quel contratto. Se quel tipo di attività, quel tipo di incarichi, ripeto, non è stato discusso in collegio, gli incarichi non sono, le attività non sono state inserite nel piano delle attività e non si è ragionato sui criteri, cioè se è una scelta unilaterale viola il contratto nazionale, cioè non risponde alla lettera K, se non ricordo male, dell'articolo 88,2. Quindi lì dobbiamo fare una sorta di opposizione. Poi è chiaro che il dirigente c'ha l'altra soluzione, probabilmente questo tipo di incarichi troverà il modo di infilarli nei benefici dei 200 euro. Ma stiamo parlando sempre di incarichi, quindi già il fatto che siano incarichi e responsabilità di tipo organizzativo e non attengono alla valutazione della qualità della prestazione del singolo docente è un punto, come dire, già di mediazione accettabile. La seconda attenzione è il personale ATA. Se si condivide che una parte delle attività, degli incarichi che 2 anni fa pagavamo con il fondo, si condivide che una parte di questi si pagano con i 200 milioni delle risorse del bonus, beh, qualche economia c'è sul fondo. A chi destinarla? Sono 2 le categorie penalizzate, i precari che sono esclusi da questa partita e il personale ATA. Gli aggiungo un altro elemento nuovo. Spesso in passato abbiamo utilizzato il fondo, poco purtroppo, per pagare che cosa? Tutta una serie di progetti. Adesso abbiamo l'organico, ne parliamo fra un attimo, dell'autonomia con l'organico potenziato. E allora, se l'anno scorso, 2 anni fa, il progetto educazione stradale è stato fatto in orario aggiuntivo e qualcuno è stato pagato per fare quel progetto perché era al di fuori dell'orario d'obbligo, e quest'anno invece si decide che quel progetto lo fa uno degli insegnanti che ha una parte o tutte le ore per il potenziamento dell'offerta formativa, e beh, un qualche effetto sulle risorse questo ce l'ha, perché se quel progetto viene fatto dentro l'orario obbligatorio io non ho più bisogno di pagarlo, come i corsi di recupero. Quindi ci sono 2 elementi per ragionare sulle risorse del fondo sostanzialmente nuovi. Il primo è, se si decide e si concorda di pagare alcune cose con i 200 milioni, non ho più bisogno di usare il fondo per pagare le stesse cose. Coordinatore del consiglio di classe, se si decide che uno degli elementi, il fatto che quasi il 47% ha ricevuto il beneficio, mi viene il sospetto che un'attività di questo tipo casca a fagiolo perché rientra nei criteri fissati dalla legge stessa, quindi molte scuole, forse è uno degli elementi che ha comportato un qualche beneficio dai 200 milioni. Se è così, vuol dire che non uso più le risorse del fondo e quindi ho come dire, l'autonomia di poter reinvestire diversamente queste risorse. Ma il pacchetto grosso potrebbe venire da tutta la partita progetti e recupero, perché i progetti e recupero sono quelle attività che calzano sull'utilizzo dell'organico del potenziamento. Se è così, mi si liberano anche altre risorse e quindi ho elementi di ragionamento e di riflessioni nuovi che invitiamo, e fate altrettanto voi se siete d'accordo, l'RSU a riflettere su questo. Cambiamo tema, organico dell'autonomia. Io lo sto facendo un po' lunga, ma spero di non annoiarmi. Allora, l'organico dell'autonomia sappiamo tutti che è comprensivo di posti comuni, posti per il potenziamento e posti di sostegno, ok? Quando si fa l'organico, allora si contano i pezzi. Quest'anno, adesso vado in numeri a spanne, l'organico normale è quello fissato dalle finanziarie di anni fa, 600.300 posti. Poi c'è stato l'organico del potenziamento, 55.000 posti, vado a memoria a palmi. Poi c'è stato l'organico di sostegno incrementato di circa 5.000 posti. Ok? Allora, quando si ragiona sugli organici nelle scuole, col sindacato a Roma e nei territori, sono 3 pacchetti distinti, cioè la campagna e poi la campagna da distribuire alle varie province, ha distribuito 3 pacchetti. E quindi hanno, come dire, questa distinzione. Tutte le scuole hanno avuto quanto serve in teoria per il curriculare, perché lì c'è l'obbligo a coprirlo, e poi hanno avuto, dopo averli ricevuti in ogni provincia dall'ufficio scolastico regionale che l'ha ricevuto dal Ministero, il pacchettino sia del sostegno che dell'organico del potenziamento. Chiusa questa vicenda, a settembre le scuole non hanno l'organico curriculare, l'organico del potenziamento, l'organico sostegno e sostegno in deroga, hanno l'organico dell'autonomia, punto. E quindi devono ragionare su come utilizzano l'organico dell'autonomia. Non ci sono insegnanti col fiocchetto blu e insegnanti col fiocchetto rosa, cioè che hanno un'etichetta addosso. Tu sei l'insegnante del curriculare perché stai qui da 20 anni, tu sei arrivato adesso, il posto è quello del potenziamento, quindi tu ti metti il fiocchetto rosa e sei l'insegnante del potenziamento. È chiaro? cioè l'organico è unico, i docenti sono tutti uguali. Come si utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia è una decisione che spetta alla scuola, spetta a, come dire, agli organi competenti dentro la scuola per decidere come si utilizzano quelle risorse, ok? Quindi il modo corretto secondo noi di ragionare non è neanche sui posti o sulle cattedre, ma è sul monte ore di ciascuna disciplina corrispondente agli n docenti più gli ispezioni che mi arrivano in quella scuola, ok? E c'è la nota del Ministero ultima del 5 settembre che questo lo dice in maniera molto chiaro. Come usare l'organico dell'autonomia? Allora, siccome molti dirigenti quando gli fa comodo chiamano la legge e dicono nella legge c'è scritto e io devo far così, vedi bonus, criteri eccetera, e anche qui vale la stessa cosa, allora vi richiamo alcuni articoli che stanno scritti in una bella scheda, bella, bella spero utile scheda che abbiamo già pubblicato sul sito. Ricordo alcuni commi della legge. Il comma 63 dice: le scuole perseguono le finalità di cui ai commi 1 a 4 della legge stessa, i primi 4, quelli dei grandi obiettivi ideali della riforma del sole dell'avvenire, e attuano funzioni organizzative di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia, cioè l'insieme di quei tre pezzi che una volta dati alla scuola, ripeto, non sono più separati ma si chiama organico dell'autonomia. Quindi l'organico dell'autonomia è stato finanziato dalla legge 107 per perseguire le finalità di cui ai commi 1 e 4. Cosa c'è scritto ai commi 1 e 4? Andiamo a leggere perché lo dice la legge. Il comma 1: affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, contrastare le diseguaglianze, prevenire l'abbandono e la dispersione, garantire il diritto allo studio, pari opportunità e istruzione permanente. Ho pizzicato dei flash, è molto più lungo. Insomma, tutte cose, chi è che non le condivide? Ma l'organico dell'autonomia tutto è stato fatto per questa roba. Attraverso una programmazione triennale, quello è il comma 1, comma 2, attraverso una programmazione triennale, il famoso PTOF triennale, comma 3, forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa, quindi l'organico dell'autonomia serve anche per poter attuare forme di flessibilità, comma 4, a tal fine la legge finanzia l'organico dell'autonomia. Insomma, mi fate anticipare dove voglio arrivare a parare? L'organico dell'autonomia non è stato finanziato per fare le supplenze tutto l'anno, ma la legge dice che c'è stato fatto un investimento per fare tutte quelle roba lì. Comma 7, le scuole, c'è scritto nella legge, e non i dirigenti scolastici, tant'è vero che uno dei punti significativi della circolare richiama le competenze, la circolare che è arrivata sulla gestione dell'organico d'autonomia, lo leggo: i docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico, a parte il termine che mi piace poco, nel pieno esercizio delle competenze previste dal decreto legislativo 165 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli organi collegiali riconosciute dalla norma, dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività ottimizzando le risorse professionali. Quindi il dirigente esercita le sue prerogative, cioè quello che fa gli atti di gestione, ma nel pieno rispetto delle attribuzioni degli organi collegiali. Quindi vuol dire che le attribuzioni del testo unico, l'articolo 4 e 10, 5 e 7, mi pare, con le competenze del collegio docente e competenze del consiglio d'istituto, e il regolamento dell'autonomia, il DPR 275, sono pienamente in vigore. Allora, l'articolo 16,2 del regolamento dell'autonomia, che fa il paio con l'articolo 25 del 165, dice: il dirigente scolastico esercita le sue competenze, per usare un termine brunettiano, adotta gli atti di gestione di sua competenza nel rispetto delle delibere degli organi collegiali. Quindi le scuole, comma 7, e non i dirigenti, e questo è stato l'inciso per dire perché non i dirigenti a loro discrezione, con il potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali hanno l'obbligo di raggiungere degli obiettivi formativi individuati tra, e segue l'elenco, ve lo anticipo, se andate a vedere l'elenco del comma 7 c'è ampia scelta, non vuol dire che bisogna farli tutti, ma bisogna decidere in base alla mia scuola, alle caratteristiche della mia scuola, quali sono gli obiettivi che io, grazie a queste risorse in più che la legge mi ha dato, posso raggiungere. Leggiamo: valorizzare competenze linguistiche, lo sappiamo tutti, potenziamento delle competenze matematiche, potenziamento delle competenze della pratica musica, arte e cinema, cittadinanza attiva, rispetto alla legalità, alfabetizzazione, potenziamento delle discipline motorie e comportamenti ispirati a sviluppo delle competenze digitali, potenziamento, eccetera eccetera. Sono 17. E la scuola, il comma 7 della legge dice: le scuole, attraverso le competenze, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, hanno l'obbligo di raggiungere quegli obiettivi. Li decidono loro quali. Conclusione: non è che adesso sono arrivati insegnanti che io non volevo e quindi chi se ne frega li tengo lì a fare, a disposizione, a fare i tappabuchi, perché chi fa questo viola la legge. Se fosse per me, io farei una diffida, un esposto alla Corte dei Conti per il legittimo utilizzo delle risorse ai sensi della legge 107. Quindi, siccome tutte le scuole hanno fatto un po' queste cavolate, noi le abbiamo sempre denunciate, a gennaio e febbraio, in base a quello hanno chiesto dei posti, ne hanno ottenuti, se va bene, il 10, 15, 20% che avevano chiesto, il resto è altra roba, beh, adesso non è che finisce a tarare luce e vino. Devono rifare, perché? Perché per legge, non perché devono utilizzare queste risorse. Allora, loro volevano potenziare la matematica, gli è arrivato l'insegnante di educazione fisica, vuol dire che cambieranno uno di questi obiettivi, ma lo devono fare, fammi finire se non perdo il filo, che vuol dire che lo devono fare? Che non ci deve essere nessuno che viene programmato in maniera sistematica per fare le supplenze. Perché noi sulle supplenze abbiamo due problemi: uno sono le sostituzioni fino a 10 giorni, perché sapete che la legge finanziaria ha stabilito che il primo giorno non si chiama mai, ma nella secondaria non si faceva, poi nella primaria si faceva anche delle eccezioni, perché se c'avevo due insegnanti non potevo ridurre la scuola in un plesso con una sola, ok, ma fino a 10 giorni, dice la legge, c'è il problema di come si sostituiscono i docenti per assenze fino a 10 giorni. Poi c'è il problema delle assenze brevi, ma superiori a 10 giorni, dove sapete che c'è un passaggio della legge che dice che non si fanno le supplenze brevi sui posti del potenziamento. E su questo c'è tutta, si è aperta adesso tutta una discussione. Sì, sì, ma no. Allora, mettiamola così: noi dobbiamo farci un'idea, come dire, condividere noi un ragionamento delle motivazioni e le indicazioni che diamo. Poi io so già che nelle scuole succederà di tutto. Io uso sempre la battuta: il sindacato e la CGIL non può mettere le mutande al mondo, mi piace dire, no? Che vuol dire che non è che riusciamo a portarle a casa e a pararle tutte, perché apriamo e chiudiamo fra di noi una piccola parentesi: guardate che nelle scuole ci sono docenti che gli va bene se vengono lasciati a disposizione a fare supplenze, che non hanno voglia di fare altro, magari addirittura c'è qualcuno, mi diceva lei, che si prende un pezzettino di ore del potenziamento perché dice forse quelle ore del potenziamento lavoro meno. Allora, lo sappiamo che succede questo, noi dobbiamo condividere però una linea. Allora, il nostro obiettivo è far sì che non si usino queste risorse per fare i tappabuchi, primo obiettivo. Secondo obiettivo: quando si assenta un docente per 2 mesi, 3 mesi, dobbiamo convincere il dirigente, ma lui si deve mettere nelle condizioni di poterlo fare, di motivare perché sostituisce quel docente, anche se sono ore non posti, mi piace poco usare il termine posti, anche se sono ore del potenziamento. Noi dobbiamo sostenere la tesi che se c'è un progetto, un programma, se io ho organizzato con le famiglie un'attività pomeridiana, anche non curricolare, di informatica, di attività laboratoriale, di teatro, di potenziamento della lingua inglese, tutti uno di quegli obiettivi elencati là. Ma non funziona che se poi l'insegnante si assenta 3 mesi quell'attività salta, dico, mi dispiace, ci abbiamo provato, ma non possiamo fare niente. Cioè qui il concetto è, siccome il Ministero ha detto che non si sostituisce ad eccezione di, poi qui ci sono 3 note, 2 che dicono ad eccezione di ore, delle ore curriculari, c'è quella sugli organici che è un po' più, che apre un po' di più e che noi invitiamo ad utilizzare, la quale dice per tutte quelle attività che prevede, diciamo, un rapporto con gli alunni. Faccio degli esempi: se non mi hanno dato il tempo pieno e voglio aumentare il tempo scuola, utilizzo l'organico del potenziamento per aumentare le ore, utilizzo un pacchetto di ore del potenziamento o un posto del potenziamento, ma viva Dio, io ho fatto una delle attività che la legge mi diceva che dovevo usare quelle risorse lì per farla. Se io faccio dei gruppi, per esempio sdoppiare le classi, sappiamo tutti che forse in qualche primaria si riuscirà a farlo, ma nella secondaria è impossibile, no? Perché se c'è una classe problematica di 31 alunni, se la sdoppio, io non devo avere un insegnante o due, mi servono tutte le discipline. Ma se io decido però per qualche disciplina di fare classi aperte, come si fanno nelle classi, come si chiamano, quelle articolate, dove alcune materie comuni si fanno assieme e altre no, chi è che mi impedisce di farlo? È un disastro su una disciplina, su una materia, matematica, ma è difficile che c'ho il potenziamento di matematica, scegliete voi un'altra disciplina. Ma se io decido per esempio di organizzare dei gruppi in cui si lavora per gruppi ristretti perché c'è un'esigenza particolare e la programmo e la organizzo, allora tu non è possibile accettare che se poi quell'insegnante si ammala per 2 mesi o c'ha una maternità, io non lo posso sostituire. La stessa cosa vale per le supplenze brevi. Cioè io non posso annullare un'attività perché un giorno sì, un giorno no, un insegnante lo levo da quell'attività che avevo programmato perché deve andare a sostituire il collega. Anche qui faccio degli esempi però. Se io utilizzo le risorse del potenziamento per fare un po' di recupero, diciamocelo fra di noi, il recupero non si fa dal primo giorno di scuola fino all'ultimo. Ci sono dei periodi in cui si fa e dei periodi in cui si interrompe. Il primo mese è difficile che si fa attività di recupero. A cavallo tra il primo e il secondo quadrimestre è difficile che si fa attività di recupero. Magari si sospende in quel periodo. Oppure gli ultimi 20 giorni di scuola. Allora è chiaro che se anche io ho programmato quell'attività e ho investito un docente per intero o per parte delle ore perché ho fatto la scelta di fare di articolare in maniera mista, come dire, l'orario di 18 ore dei vari docenti della scuola, è chiaro che quelle ore, se quell'attività in quel periodo non la faccio, non ho giustificazioni per chiamare il supplente sotto 10 giorni, lo devo utilizzare. Altra cosa invece che io cioè faccio una programmazione, poi di fatto sono costretto ad azzerare o annullare tutte le attività programmate, perché? Perché tutti i giorni ho l'esigenza di andare a coprire. Ho sintetizzato, ho 4 slide, proviamo, insomma, conclusione, vado avanti nella lettura della legge e poi spero di chiudere in fretta così apriamo la discussione. Il comma 85, che è quello che parla appunto delle supplenze brevi, cosa dice? Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il DS può, c'è scritto nella legge, può, non c'è scritto deve, c'è scritto può, effettuare le sostituzioni fino a 10 giorni. Che vuol dire tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7? In italiano, il dirigente può. Vuol dire che se io ho fatto un progetto in cui per tutto l'anno, è un po' difficile, ma per certi periodi dell'anno io organizzo delle attività perché voglio realizzare uno di questi obiettivi, e allora la legge stessa, il comma 85, che è uno dei commi che sta dentro il pacchetto di quelli che riguardano i dirigenti scolastici, dice al dirigente: tenuto conto di quello, puoi sostituire fino a 10 giorni. Che vuol dire tenuto conto? Che quella è una priorità. Che se io mi sono prefissato un obiettivo e ho organizzato le attività, il piano delle attività in modo tale da realizzare quell'obiettivo, quella è una priorità. Tenuto conto che quella è una priorità, vuol dire posso, che vuol dire posso quando non mi viene meno, non mi viene pregiudicata quella attività. Lo condividiamo come ragionamento, come impostazione da poi lo so che non ha, che accadrà, figuriamoci. Dimmi, possiamo andare avanti? Segnatevele, dai, alcune cose. Allora, questo l'abbiamo detto. La nota del MIUR, guardate che è molto coerente con, sostanzialmente con quello che ho detto io. A parte gli sbrodolamenti che fa, si capisce, per dire quanto è bella la legge 107, quante opportunità dà, eccetera, eccetera. Però alcuni punti, qualcuno l'abbiamo chiesto anche noi, qualche paletto lo mette. Ne segnalo alcuni. Non esiste distinzione contrattuale tra i vari posti. Poi lo so che nelle scuole si vale, in molte scuole, la regola del nonnismo. Oggi si sta creando la corporazione degli docenti titolari, i quali dicono: ma io sto qui, sono titolare da 20 anni, fate quello che vi pare, ma a me non mi rompete, detta in sintesi. Cioè, dalla serie sembra che qualcuno abbia un diritto, come dire, ereditario di stare in classe su determinate classi, magari del triennio piuttosto che sulle prime un po' più faticose. Questo diritto non esiste, non esiste distinzione. Questa logica unitaria dove la vogliono vedere? Per esempio, se c'è una cattedra COE e c'è un potenziamento. E quindi andiamo già sui casi particolari. Però, ma questa è l'eccezione, non è la norma. Lo so, ne parliamo un attimo dopo, approfondiamo la questione delle quote. Allora, però io mi interessa fissare i punti che questa circolare richiama. Non esiste distinzione contrattuale. I docenti individuati su potenziamento possono svolgere attività integrate e attività curricolari, cioè non c'è nessuna. L'ultimo arrivato non deve fare per forza lui il progetto e il recupero. Né può il dirigente da solo cambiare le carte, perché ci stanno anche situazioni opposte. Magari qualche dirigente trova l'occasione per togliere le classi a un insegnante, qualcuno lo definisce contrastivo, qualcuno potrebbe definire che magari sta un po'... e ci mette l'ultimo arrivato e lui lo destina a tutto. Allora, non funziona né in un senso né nell'altro. Sulla COE è un po' più complicato, ne parliamo fra un attimo, ritorniamo sempre sulla COE. Dipende pure come ci arriva a trasferimento quel docente, perché se è un docente che ha ottenuto quel posto in fase A su quel cattedra ora è un conto, se ci arriva uno sul potenziamento è la cosa più complicata, ne parliamo fra un attimo. I docenti di staff, ripeto, a me lo staff non mi piace se è la filosofia della 107, i docenti che collaborano con il dirigente per attività e responsabilità di natura organizzativa, secondo me ce l'abbiamo sempre avuti. Se c'è condivisione su il responsabile di plesso di sede, c'è sempre stato, l'abbiamo sempre pagato, siamo tutti d'accordo che è una figura che ci deve stare. Qui adesso possiamo decidere se questo tipo di incarico lo dobbiamo pagare perché è tutta attività aggiuntiva, oppure possiamo utilizzare una parte delle ore del potenziamento. E anche qui vale il ragionamento di prima, ma se io ho utilizzato un posto del potenziamento per ricavare il semiesonero o l'esonero per il vicario, che sapete è stato abolito, ma la legge 107 consente di utilizzare quelle risorse per... Infatti anche qui apro e chiudo, ci abbiamo problemi per esempio sugli insegnanti di religione. A me mi arrivano continue mail perché il vicario è insegnante di religione. Come faccio? Cambi vicario. Perché non c'è il potenziamento, oppure lo fa gratis e lo paghi, ma lo fai senza esonero, perché? Perché che ci piaccia o no, non è che insomma della legge i dirigenti pigliano quello che gli piace e quello che non gli piace, lo scaricano sul sindacato, è colpa del sindacato. Che non... L'anno scorso fu fatta una deroga perché, nonostante la legge avesse abrogato l'esonero dei vicari, perché l'organico del potenziamento arrivava a dicembre. Quindi per 3 mesi c'era il problema e quindi fu fatta la deroga. Sta deroga non c'è più, perché la legge ti dice che tu con le risorse aggiuntive puoi fare fronte non solo a esigenze di natura didattica, progetti eccetera eccetera, ma anche a esigenze di natura organizzativa. È chiaro? E quindi ha abolito gli esoneri, perché ha detto con le risorse del potenziamento individui lì la soluzione. Ma se io individuo un docente che nomino vicario e ho la fortuna di avere uno del potenziamento che può andare in classe a posto suo, e poi ne consegue un'altra domanda: ma se quell'insegnante che ho utilizzato mi si ammala per 3 mesi, 4 mesi, che fa il vicario? Ritorna in classe? Perché sul potenziamento non posso nominare il supplente? O viceversa, sul posto, se si assenta il vicario, insomma. Cioè, ci sono, chiudiamo il ragionamento un po' di prima, se c'è una sana e buona programmazione che tutela anche il dirigente scolastico, non è vero che la legge ti obbliga a sospendere quell'attività perché non puoi nominare il supplente, oppure perché devi fare le supplenze brevi sistematicamente. Insomma, una volta ho programmato l'utilizzo legittimo, previsto dalla legge, di quelle risorse, io ho il diritto e anche il dovere, secondo noi, di garantirle quelle risorse. E quindi, a secondo se mi viene meno questa garanzia, a secondo se quell'attività è regolare oppure meno, ne consegue se posso o no chiamare il supplente. Queste sono le indicazioni che noi diamo ai nostri e ai dirigenti scolastici. Siete obbligati a fare la programmazione, se fate la programmazione è legittimo provvedere con l'organico del potenziamento alle supplenze brevi, a condizione che non si pregiudichi l'attività che io ho messo in cantiere e che ho programmato nei periodi in cui ho stabilito di poterla fare. Praticamente ho anticipato un po' tutto. Richiamo il ruolo dei diversi organismi: il consiglio d'istituto, l'assegnazione alle classi è una competenza del consiglio d'istituto. Fate in modo che ci sia, che il consiglio d'istituto lo stabilisca. Non deve essere il dirigente a dire quali sono i docenti che vanno assegnati nel corso A piuttosto che B, che C, biennio o triennio. Il collegio ha la competenza a fare la proposta in questo caso, mentre sulle attività si rovescia la cosa, cioè la competenza tecnico-professionale, l'attività che necessita quella scuola, è una competenza del collegio. I criteri di assegnazione, di formazione delle classi prima e di assegnazione del docente delle classi, è una competenza del consiglio d'istituto. La RSU, anche qui la nota ci aiuta, la nota del ministero, l'avevamo chiesta noi, ricorda, fatemelo trovare il pezzo, ve lo leggo: l'obiettivo è quello di accompagnare le scuole verso un utilizzo progressivamente sempre più integrato dell'organico dell'autonomia, in coerenza con le finalità della legge, nell'ottica della valorizzazione della progettualità scolastica, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali e delle prerogative sindacali. La circolare del 5 settembre del capo dipartimento De Pasquale le richiama, ci sono, non sono abrogate. E allora qui cosa c'entra la RSU su questo? Beh, non è che decida il piano di attività della RSU, neanche i criteri di assegnazione alle classi, neanche la costituzione dei posti, delle cattedre. 18 ore per fare cosa? Non è una competenza del sindacato. Ma per esempio i criteri di assegnazione dei docenti ai plessi, secondo me sì. Questo lo richiama, ci dà in poche parole una mano a ripristinare che cosa sostanzialmente? Due principi: il diritto di informazione su tutta questa partita, criteri di utilizzazione del personale, quantomeno il diritto di informazione, e ci dà la possibilità di rilanciare anche il diritto di assegnazione ai vari plessi e alle varie sedi. Perché qui c'è uno dei problemi, vi cito il caso concreto: chi si è trasferito in fase A ha avuto una titolarità di scuola, e se io ho un istituto comprensivo con 3 sedi, oggi queste 3 sedi sono distinte, hanno 3 codici distinti. Se ho una sezione staccata, c'è un codice distinto. Allora, chi è arrivato a trasferimento anche sul posto del potenziamento, perché i trasferimenti non è che i posti erano blu e gialli, i posti erano N, e i posti N per il movimento di fase A erano comprensivi di tutto l'organico, cioè dell'organico dell'autonomia. Quindi non lo so se quello che è arrivato rientra nel numero dei posti curriculari, cioè se io ho 3 posti curriculari più 6 ore e 1 di potenziamento, io ho 4 posti più uno spezzone di 6 ore. A mobilità ci sono andati 4 posti. Allora, se uno è arrivato su una di queste sedi, non è che il dirigente adesso lo manda dove gli pare. Se c'è una titolarità di sede, c'è una titolarità di sede, lavora lì. Non è che posso mandarlo sulla sezione staccata anche di un comune diverso. Altre cose, ahimè, è chi ha avuto il trasferimento sull'ambito. E qui è successo di tutto. Per ritornare un po' anche alla questione delle COE. Quello che ci ha avuto il trasferimento su scuola e ci ha avuto un trasferimento sulla COE, va sulla COE. Poi possiamo decidere se quelle ore della scuola, se uno ha 2 scuole, 9 e 9, oppure 12 e 6, oppure addirittura 3 scuole, poi ogni scuola decide il suo pacchetto di ore, se sono ore in classe o sono ore di potenziamento, ma il suo pacchetto di ore. Ma su quella cattedra ci va il docente che ci ha ottenuto il trasferimento, perché l'ha chiesto lui e ci sono le regole del contratto della mobilità. Purtroppo i casini ce l'abbiamo su quelli che sono stati trasferiti sull'ambito, perché lì c'è stata la fase della chiamata diretta, il bando e poi l'assegnazione. E qui è successo di tutto e di più, perché alcuni dirigenti correttamente hanno scritto nel bando qual era il posto scoperto, perché qualche posto scoperto è anche una COE. Se l'hanno scritto e il docente ha fatto domanda, va lì. Qualcun altro non l'ha scritto, oppure non ha detto neanche se ha 3 sedi dove stava il posto da coprire. E questo è un primo problema. Poi c'è un secondo problema, che ancorché l'avessero detto, l'assegnazione che hanno fatto gli uffici l'hanno fatto su un unico codice per tutta la scuola. E quindi qui ci abbiamo, come dire, risultato finale qual è? Che tutti quelli che sono stati assegnati alle scuole non per mobilità diretta, fase A, oppure primo ambito dei vecchi della fase B1, ma ci sono arrivati dall'ambito, qui c'è di tutto e di più. Ci sono state procedure corrette, trasparenti, quindi uno sa dove va a far che cosa, e ci sono state situazioni dove invece è la scuola che deve decidere indistintamente, quindi ci sono anche delle sorprese. Uno pensava di andare lì, mentre magari c'è da coprire il posto anche sulla sezione staccata, perché nel bando non è stato precisato che c'era un posto anche di là, e quindi rientra nel gioco generale di assegnazione dei docenti alle varie sedi, che come sappiamo è una competenza del dirigente, dovremmo rivendicare con criteri definiti in sede di contrattazione. Quindi questi sono i problemi, come dire, connessi vabbè, questo ve l'ho già detto. L'altra cosa che vi volevo segnalare sono 2 problemi, e poi voglio finire perché magari facciamo una pausa, poi voglio ascoltare voi. 2 questioncine: gli spezzoni e loro alternativa di religione cattolica. Non accettate, denunciatelo, ditelo a Fiorella, perché faccia tutti i passaggi, che queste robe vengano date a sottrazione delle ore del potenziamento. Chiaro cosa voglio dire? Cioè, se in una scuola c'è uno spezzone di 6, se c'è uno spezzone sopra 6 ore, non è cambiato nulla, le procedure sono quelle solite. Cioè, prima entra nella possibilità dell'ufficio di fare abbinamenti per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Se rimane uno spezzone di 12 ore, si nomina il supplente, chiuso. Arriva il supplente, poi queste 12 ore, che cosa fa il supplente? Se fa 12 ore di potenziamento, 6 e 6 o 12 ore tutte in classe, rientra nella discussione di come la scuola utilizza le risorse dell'autonomia, che non è detto che siano posti solo in tutti interi, ma possono essere per una classe di concorso posti interi più un pezzetto. Quelli fino a 6 ore, sapete che se non l'abbinate il provveditorato per fare assegnazione, cioè, ritornano nella competenza della scuola. E io la dico così, non è cambiato niente rispetto al passato. Cioè, quelle 6 ore il dirigente, prima di chiamare un supplente, cosa che può fare, deve verificare che non ci sia nessuno in servizio nella scuola che abbia interesse a farle, ma non a sottrazione, le deve fare in aggiunta, gliele devi pagare, ok? Fino a 24 ore la solita regola. Religione, ora alternativa, è la stessa cosa. Allora, ricapitolo quali sono le norme. Se io ho una cattedra vecchia di 15 più 3 a disposizione, è un conto. Allora, nelle 3 a disposizione ci casca anche l'ora alternativa. Ma se io ho posti tutti interi, indipendentemente se sono curriculari o di potenziamento, quelli sono posti. L'ora alternativa, chi la può fare? Chi è disponibile, altrimenti anche qui chiamo il supplente, ma diventa la 19ª o la 20ª ora. Deve essere pagata, lo dice la circolare, anche perché tra l'altro per l'ora alternativa ci sono risorse specifiche ad hoc che vengono addirittura dal Ministero degli Interni, perché è in attuazione del concordato. Non ho capito, scusa. Con la retribuzione... No, ma se la prende anche un docente che nelle sue 18 ore fa 18 ore tutte di potenziamento, non è che una di queste 18 fa l'ora alternativa. È chiaro? Cioè l'ora alternativa non è a sottrazione del diventa la 19ª. È come lo spezzone di 3 ore. Non è che se io sono di educazione fisica, sono arrivato nel posto del potenziamento e poi c'è uno spezzone di 3 ore in organi di diritto di educazione fisica, non è che le fa quello del potenziamento dentro le 18. È chiaro? Cioè devono essere 18 ore di potenziamento, quello che si decide all'interno della scuola, più 3. Salto tutto. Sul personale ADA la raccomandazione l'ho già fatta. Molte cose alcune cose le abbiamo ottenute. Ci sono dei buchi. I 2000 posti, le carenze sull'organico di fatto, che non ci siamo riusciti. Abbiamo ottenuto lo sblocco delle missioni in ruolo, abbiamo sistemato il pagamento degli incarichi di funzioni superiori. Non è che lo voglio saltare, ma perché ho anticipato già tutto il ragionamento sul riconoscimento che è all'interno delle scuole. Ve lo lascio questo. Sul riconoscimento del lavoro ADA abbiamo fatto tutto il ragionamento su come ragionare sulle risorse per recuperare i soldi. Questo è uno degli obiettivi. Siccome il personale ADA è in sofferenza, è quello, diciamo, con maggiore carichi di lavoro, perché un docente ha subito tante vessazioni, ma i carichi di lavoro sono quelli. Il personale ADA no. Che possiamo fare allora? C'è la partita aperta dell'organico. I posti che non bastano, ok. C'è la partita che abbiamo sbloccato sulle missioni in ruolo, recuperando i posti dell'anno scorso, e questo è un risultato positivo. Dobbiamo rinnovare il contratto e trattare bene il personale ADA, perché è quello che ha stipendi più bassi, rientra in uno degli obiettivi della piattaforma del rinnovo del contratto. Nell'immediato però, nella vostra scuola o all'RSU che incontrerete nei prossimi giorni, che indicazioni gli diamo? Cerca di recuperare un po' di soldi e di riconoscere un po' di lavoro in più al personale. Perfetto. Le ragioni, cioè bisogna trovare più soldi, va bene? Cioè se l'anno scorso gli davamo il 20% del fondo, dobbiamo aumentare questa quota, in maniera che tutte le intensificazioni carichi di lavoro, e abbiamo la possibilità attraverso due strade. La prima è quella di una parte di quello che si paga con i 200 milioni, non lo paghiamo dal fondo, pensiamo agli ADA. Tutti quei progetti che non sono più aggiuntivi perché rientrano dentro l'organico e quindi stanno nell'orario obbligatorio che non dobbiamo pagare, recuperiamo un po' di soldi e investiamo in personale. Sul contratto penso che non vi debba dire nulla, le linee guida ce l'avete. Ricordo a tutti noi che la FLC, con tutti i passaggi, le assemblee, la consultazione, a dicembre del 2015 pubblicò la piattaforma. È chiaro che è dicembre 2015, ma ci abbiamo un lavoro fatto che non dobbiamo né dimenticarcelo né mettere da parte, lo dobbiamo solo aggiornare. Sono uscite le linee guida unitarie, lavoreremo a breve per cercare di, come dire, di trasformare le linee guida in una piattaforma un po' più corposa, ma dobbiamo sapere che, come dire, il primo appuntamento sono i soldi, dopodiché si apre la discussione all'ARAN. Quali sono i nostri obiettivi? Se dovete fare un'assemblea, ricordateli. Il salario fondamentale è il primo obiettivo, quindi che Renzi e dintorni si tolgano la testa alla Madia Oghi, che se i soldi sono quelli e sono pochi vanno solo a premiare i bravi o a riconoscere, perché c'è un problema di recupero salariale per tutti e in particolare per gli stipendi più bassi. Poi c'è il tema dell'orario e organizzazione del lavoro, c'è l'obiettivo di riconquistare l'autonomia del contratto su tutta la mobilità, superando tutte le incursioni di legge. E qui apro, chiudo una piccolissima parentesi, a mobilità in altro anno non sappiamo che succederà, non è che in altro anno la partita è libera, l'unica cosa che non c'è più è la mobilità straordinaria su tutta Italia, perché quella era di un anno, ma c'è la questione del blocco, c'è la questione degli ambiti, c'è la questione che la legge dice che anche il titolare di scuola che si vuole muovere lo fa solo su ambito. Allora le partite non è che so, abbiamo fatto un contratto straordinario una tantum per un anno, l'anno prossimo sarà un contratto diverso, ma sarà tutto in salita da conquistare. I materiali ce l'avete? Insomma, concludo. Insomma, dopo quello che abbiamo visto sulla riforma, chiamata diretta, quello che è accaduto sulla mobilità, alla luce di come tante scuole hanno usato il bonus, la chiamata diretta, l'efficienza del MIUR, eccetera, credo che un giudizio lo possiamo dare e chiedere una cosa a Renzi. Lascio a voi la lettura e anche l'autore, e io la faccio mia, insomma. In sintesi, chiediamo maggiore rispetto dei lavoratori della scuola. Facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo. Ora siamo arrivati verso. Io posso stare qua fino alle 2.